Io sono contento di vedere parecchi di voi che stanno imparando a conoscere, ad apprezzare la parola di Dio, in particolare i Salmi. E vi incoraggio, leggeteli anche da soli, perché i Salmi sono una preghiera che da migliaia d'anni, ancora prima di Cristo, entrano nel cuore dell'uomo, illuminano la coscienza, consolano. Oggi abbiamo sentito il Salmo 54-55 che descrive molto bene l'atteggiamento comune ancora oggi. Quanta gente sconsolata c'è in giro, quanta gente triste, demotivata, delusa, abbandonata. Questo Salmo interpreta molto bene, guardate. Ed è parola di Dio questa, eh? Dentro di me si stringe il mio cuore. Piombano su di me terrori di morte. Quanta gente non ha più voglia di vivere, ragazzi e anziani. Mi invadono timore, tremore, lo sgomento mi ricopre. Io non so più dove fuggire, dice il Salmo. Posso andare a rifugiarmi anche nel deserto. Vorrei trovare un riparo in fretta, perché questo vento, questa bufera mi sta travolgendo. In particolare, dice, se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato, l'avrei capito. Se un mio avversario mi avesse attaccato, avrei potuto difendermi, scappare. No, no, no. Sei tu, mio amico, mio intimo amico, mio compagno. Mi legava a te una dolce confidenza. Camminavamo concordi verso la casa di Dio. Quante amicizie tradite, e la più grande è l'amicizia tra un uomo e una donna che si sono dichiarati amore. Ma voi avete provato a sentire un po' di canzoni? È raro che ci siano canti che parlano di amori che fioriscono bene. Tante canzoni parlano di amori che finiscono, di te che te ne sei andata, mi hai lasciato qui da solo nel mio letto troppo grande, la mia casa è vuota. Perché questa è l'esperienza di tante persone, l'abbandono. Se mi avesse tradito un avversario l'avrei capito, ma quante dolci parole ci siamo dette, quante gite in montagna abbiamo fatto con te, quante volte siamo andati a pedalare lungo il Naviglio, quante volte siamo andati insieme a teatro, quante volte abbiamo mangiato la pizza, e adesso, se mi vedi per strada, non mi guardi nemmeno. Non mi arriva più un tuo SMS. E allora, questo Salmo interpreta molto bene, eh? Ma questo Salmo non solo interpreta, anche consola. Io invoco Dio e il Signore mi salva. Io lo invoco al mattino, alla sera, a mezzogiorno, sospiro ed Egli ascolta la mia voce. In pace riscatta la mia vita, che il Signore ci doni davvero la pace. Io sento persone che dicono sono addolorata, ho anche dei dolori fisici forti, non c'è più in giro nessuno che mi capisca, però sono nella pace, perché il Signore mi consola. Dio ascolterà, umilierà i miei nemici, che non cambiano e che non temono Dio. Coraggio, amici, Salmo 54-55. Andiamo a scoprirli anche da soli, la Bibbia ce l'abbiamo in casa. Leggiamoli con calma. Non abbiamo paura di sottolineare, magari con la matita o se non con l'avviro, questi salmi. Non sciupiamo i libri devono essere vissuti, non devono essere immacolati. Perché se tu domani apri quella pagina e vedi quella sottolineatura, ti ricordi. Pensate che io ho il breviario tutto sottolineato e certe volte accanto segno la data in cui l'ho sottolineato e mi capita di trovare, per esempio, dei salmi che ho sottolineato 30 anni fa, quando ero in un pellegrinaggio a Nazareth. E il vedere quella data e il vedere quella sottolineatura risveglia la mia mente a quei momenti e la mia preghiera si fa più grata a Dio e più consolata.